voce. Valerio Binasco legge Il compagno di Cesare Pavese. Tredicesima puntata. Poco prima di giorno Linda mi disse di andarmene. Sai com'è, ti conosco, non sapresti capire. Io lo sapevo dalla sera questa cosa, ma ero fiacco. Lui saprebbe capire? Le chiesi sugli occhi. Lei si girò, non disse nulla e si stirava sospirando. Lasciami fare un lungo sonno, stanotte sarò in treno. Mi rivestii sopra il tappeto in piedi e dalle persiane respiravo l'aria fresca. Roma è bella quest'ora, le dissi. Quando a Torino me ne andavo avanti giorno, ero felice. Sei cattivo, mi disse. Ero solo un ragazzo. Se mi avessero detto che prendeva il mio posto. Linda, perché sei ritornata? Ci stai male? Ci sto male per te. Allora lei saltò dal letto e mi abbracciò. Non voleva che me ne andassi pensandola male. Non voleva che andassi a bere del vino. Non capiva perché non capivo le cose. Senti bene, le dissi. Stanotte è andata come è andata. So quanto vali e quanto costi. Tu sei la stessa, ma io no. Quel braccialetto mi premeva sulla nuca. Mi staccai. Quanto ti costa questa stanza? Le dissi. Quella fu l'ultima sciocchezza. Lei rise, s'era seduta sopra il letto e mi guardava. Non vuoi capire o non capisci? Brontolò. Spalancai le persiane, sporgendo la testa c'era un cielo già chiaro. Fumiamoci l'ultima buoni, mi disse. Così fumammo e guardavamo la finestra. Sei sicura che Amelio lo portano a Roma? Ci pensi ancora, disse lei. Se lo sapevo stavo zitta. Lo porteranno alla Lungara, dissi. Quello è il Plaza per noi. Quando parti? Questa sera alle 9. A Torino sarò sola. Parlava appoggiata alla mia spalla e tremava nel fresco. Fece la voce di chi piange e mi guardava. Se vieni a Torino, mi disse, verrai a cercarmi? Buttai la cicca e mi staccai. Serve a qualcosa? Mi guardò con la faccia imbronciata. Tu non mi hai mai voluto bene, disse piano. Quando fui sotto nella sala ci pensai. Non mi ero nemmeno voltato alle scale. Due camerieri in grembialone buttavano in aria tappeti e sofà. Erano aperte le finestre e tutto acceso, ma la luce di fuori scoloriva la falsa. Mi immaginai Lubrani steso che dormiva. Me lo vidi in mutande abbracciato con Linda. Quel che lasciavo in quelle sale era un'idea, una sciocchezza. Era meglio la strada, libera, la gente che andava. Al Flaminio mi fermai a prendere un caffè. Povera Linda, anche con lei l'unico modo era di smettere. Adesso era lei che diceva parole. Pensavo al piacere carogna ad un tempo, se avessi saputo. Ma che cos'era tutto questo dopo Amelio? Forse Linda l'aveva capita. Saltai intanto sulla rossa e passai da Giuseppe. Per non dare nell'occhio aspettai sotto il viale e pensavo addirittura che avessero preso qualcuno. Mi fece bene andargli incontro quando uscì. Era successo che dovevo correre subito in negozio. Era arrivato uno da fuori e bisognava dargli casa. Ieri notte mi avevano cercato dappertutto. Ero il solo che disponessi di due letti e dovevo prestarmi. Così conobbi Gino Scarpa, che rientrava dalla Spagna. Il suo nome era un altro, ma chi lo sapeva? Lo trovai già in negozio seduto che scherzava con Pippo. «Sono Pablo», gli dissi. Era magro, bruciato di sole e gli ridevano gli occhi. Disse subito, ho sonno, mettetemi a letto. Mandai Pippo a comprare e parlammo con Gina. Forse era meglio lo portassi nell'alloggio. Qui vanno e vengono i clienti e c'è il ragazzo. Meglio qui, disse lui. C'è di buono che si esce dall'orto. Quando Pippo tornò, lui dormiva già da un pezzo. Si era buttato sul letto di Gina. Tutto il mattino lo passai sulla strada a lavorare. Gina aveva tirato la tenda e cucinava. Ogni tanto dal buco guardava me e Pippo. Ci fu un momento che il ragazzo rovesciò una bicicletta, cadde sul secchio e fece un chiasso d'inferno. Io gli dissi, ma sì, rompi tutto. Lui mi guardò senza parlare e tirò su la bicicletta. Finalmente lo mandai a mangiare e feci un giro fino in piazza a comprarmi il giornale. Allo stadio c'era stata una festa fascista. Roma era piena di camicie di Balilla. Il giornale era tutto un discorso. Della Spagna parlavano appena. Vanno bene le cose, pensai. Sull'uscio trovai Gino Scarpa nella tuta del biondo. Mangiavo una mela. «Com'è che sei Pablo?» mi disse. «Sei stato laggiù?» «Ma che?» Suonavo la chitarra. Mi chiese allora se a Torino conoscevo questo e quello. Ero giovane, dissi. Non leggevo i giornali. Gina ci disse che era pronto. Aveva messo una tovaglia bianca, bianca, e tagliate le fette del pane. Io la guardai mezzo ridendo. «Con la tua tuta ti somiglia». Dal giorno prima non l'avevo più pensata accanto a Linda e nemmeno guardata sul serio negli occhi. Adesso che Scarpa cambiava le cose e chiariva il perché della notte, potevo guardarla. Aveva un'aria tra raccolta e malcontenta. Non sorrideva e non si mise a tavola. «Avete fatto conoscenza?» dissi a Scarpa. «Le hai rubato i calzoni e sei Gino anche tu». «È una divisa che mi piace», disse lui. «È quella vera, ma nessuno ti conosce». Poi parlò della Spagna come fosse Trastevere. Avevo 4 piemontesi nel reparto. Che ragazzi, erano venuti da Digione a loro rischio. Se a quest'ora non sono caduti, stanno chiusi a Madrid. «Che si dice qui a Roma?» mi chiese di scatto. «Della Spagna si ride». Masticava e guardava nel piatto. Lasciò che dicessi. Anche Gina ascoltava, poi scosse la testa. «Ci costa troppo questa guerra», disse poi. «Mentre i fascisti mandan carne da cannone, noi si perde dei quadri per niente. Loro attaccano, loro hanno scelto il momento, il terreno. Qui si dice che è colpa dei russi». Dal negozio chiamarono e Gina si mosse. «Non è niente», ci disse dietro la tenda. A bassa voce chiesi a Scarpa se sapeva di Torino. Dissi il nome di Amelio e che stava in un letto. Non sapeva. A quel tempo era in Spagna. «C'erano i nostri mutilati», mi rispose, «che finivano in mano al nemico. Ne ho veduti con gli occhi strappati». Gina rientrò e con lei Giuseppe, che ci disse salute e rimase a guardarci. Dopo un momento Scarpa smise di parlare. «Questa notte», gli fece Giuseppe tranquillo. Poi Gina ci diede il caffè. «Quel tuo amico», fa Scarpa, «non hai chiesto ai compagni di qui?» Parlammo allora di Torino e se qualcosa era successo. «Caduti ne sono caduti», diceva Giuseppe. «Non c'è nessuno che ci metta sui giornali. Qualche nome si legge. Quando dicono il nome è qualcuno che non morde, si sa», fece Scarpa ridendo con gli occhi. «Soltanto se nessuno ne parla è dei nostri. Quella faccia bruciata era proprio da Spagna e non c'era vissuto che nei mesi della guerra». Feci caso che gli occhi di Gina somigliavano ai suoi. Gina era chiusa, ma il calore era lo stesso. Né Giuseppe né Scarpa sembravano accorgersi che lei ci sentisse. A un certo punto richiamarono e Gina rientrò nel negozio. Noi parlavamo come prima. Ero il solo dei tre che pensasse alla tuta. «Questa notte», mi disse Giuseppe, «si voleva riunirci da te, ma per qualcuno è fuori mano». Mi spiegò dove Scarpa doveva trovarsi e di fare attenzione. Mi toccava montare la guardia. «Prendi magari la chitarra, è sempre buona». Poi si alzò per andarsene. Passati loro dalla tenda, passai io e nel negozio vedo Linda che aspettava. Linda e Gina si guardavano aspettando qualcosa. Era seduta su una cassa e non si alzò, mi disse ciao. Poi mi fece un sorriso maligno e aspettò che parlassi. «Disturbo?» mi disse alla fine. «Non parti stasera?» «Sta buono, ho voluto vedere la ditta». Giuseppe disse «siamo intesi» e se ne andò. Sentii che Scarpa mi guardava divertito. Gina era sempre in faccia a Linda e non fiatava. «C'è voluto Carletto per dirmi la strada. Mi dispiaceva non poterti salutare. Qui si lavora notte e giorno, quanto vedo». Si alzò in piedi e ci disse «Pablo è sempre lo stesso, vuole che porti i suoi saluti ai torinesi e non lo dice. Sono stupida a farlo, non ha bisogno di nessuno, ma gli servono tutti», disse l'ultima frase con la voce di un'altra. Scarpa mi disse «Tu hai da fare, noi andiamo». Ma fu allora che Linda si mise a gridare e rideva e non era più lei. Non ci sono segreti con Pablo, si sa, è un ragazzaccio che ha bisogno della mamma. Qui lo sappiamo almeno in tre. Senza frutta, padrona, levargli la frutta quando ha fatto i capricci. È questo che avevi da dirmi? Le chiesi cattivo. Ogni cosa era vera. Diedi un'occhiata a Gina se ridesse anche lei, ma la vidi raccolta, intontita e furente. Bastò per calmarmi. Dissi a Scarpa: lascia che le parlo un momento. Linda mi disse: non occorre, me ne vado. Poi, ridendo, volevo soltanto sapere chi sei. Si fermò sulla porta, ci guardò tutti quanti. Però potevi trattar meglio una tua amica. Sembra di entrare all'osteria in questa casa. Sentì Gina raccogliersi e dire: perché? Quel che aveva da dire gliel'ha detto stanotte. Linda disse: se tutti permettono, voglio parlarti. Non c'è bisogno, puoi parlare in faccia a tutti. Allora Linda scosse il capo e mi guardò. Levò la mano e saltò fuori. Era andata. Ultima cosa, avevo visto il braccialetto. Scarpa non c'era, era tornato nella stanza. Gina, appoggiata al banco, non parlava, non mi guardò. Guardò con quegli occhi la porta e la strada. Mi dispiace per gli altri, dissi brusco. Gina disse: se torna l'ammazzo. Tutti e due fissavamo la porta. Le sai queste cose, le dissi. Non c'è niente di nuovo. C'è soltanto che vali di più. Se ritorna l'ammazzo. Non la toccai. Non le parlai per consolarla. C'è da fare, dissi. Tutto questo è finito. Quel pomeriggio mi invitò Scarpa all'osteria. Traversiamo la strada, diceva. Meglio farsi vedere che no. Ci sedemmo in un cantuccio sotto i mirti. Mandammo Pippo a comprarci un toscano e comandammo un po' di vino. Con questa storia, lui diceva, vivi al chiuso e poi viaggia e poi corri. Mai che posso allungare le gambe e pigliarmi una festa. Mi parlò di una voglia che aveva, buttarsi in campagna, allevare i maiali, non muoversi più. Il male è che quando mi fermo c'è sempre la guerra. O degli altri o la nostra c'è sempre. Una volta la casa l'avevo, passato. Tu ne hai troppe di case, mi disse. Stacci attento, ne ho visti sudare. È una storia che non finisce mai a tempo, gli dissi. Questa volta credevo di averla chiarita. Scarpa rideva con quegli occhi. Non lo sai che una storia torna almeno due volte? Prima sul serio, poi per burla. È come un morto, un annegato che ritorna a galleggiare. Avevo voglia più di bere che di ridere. Fortuna che Scarpa discorreva anche per me. Quella cosa che Linda mi aveva gridato, che per me una donna era solo un capriccio, era vera e l'aveva sentita anche lui. Devo parlargliene, pensai. La notte andammo alla riunione in una bettola. Per non farci fermare al ritorno si durò fino all'alba. Gino Scarpa scese con gli altri in una specie di cantina che metteva in un'altra cantina di dove in caso si usciva. Io restai con Giuseppe nella stanza di sopra. Mi ero portato la chitarra, ma se avessi suonato a quell'ora una ronda poteva sentirci. Avevo sonno, mi pesava l'altra notte. Giuseppe saliva e scendeva le scale, ogni volta mi dava una voce. «Statti su», mi diceva. «Pensa che colpo se ci prendono». Mi tenne sveglio il batticuore. Questo sì, sapevo che in quella cantina i compagni erano molti e che Scarpa da solo valeva per tutti. Non per niente discussero tanto. Dissi a Giuseppe di informarsi di Torino. Fu solamente sotto l'alba quando si sentì «hanno finito» e il padrone portò del caffè anche a noi altri che Giuseppe mi fece tranquillo «hai ragione, quel tuo amico era un compagno». Di più non sapeva o non volle parlare. Qualcuno intanto dei più giovani che andavano al lavoro uscì da una parte o dall'altra. Il padrone teneva socchiuso e per finta scopava. Degli altri non vidi nessuno. Quando partii con Gino Scarpa era già luce. Mi ero accorto dagli ultimi discorsi che la riunione non l'aveva contentato. Capii che si doveva farne un'altra. Traversammo i giardini del Pincio nel primo sole. Camminavo intontito come si nuota controcorrente. Se non ci fosse stato Scarpa, mi buttavo su una panchina. Che ti pare? Lui mi disse. Si fa colazione? Sarebbe bello mangiar qui, sotto le piante. Invece scendemmo al Flaminio, in quel caffè dove ero entrato il giorno prima. E destino, pensavo, che rincasi a quest'ora. Stai su, disse Scarpa. È una guerra anche questa. Ma non aveva più la faccia così viva. Gli vedevo le rughe, quelle rughe di magrezza che raccontavano quante ne avesse passate. La sua forza era tutta negli occhi. Mentre sorbeva il caffè latte, mi saltò in mente la gola di Amelio buttato sul letto. Soltanto a vederci si capisce chi siamo, dissi. Per fortuna non c'era nessuno. Scarpa gettò un'occhiata smorta alla cassiera e serio borbottò: tutti i compagni hanno la faccia di chi dorme sotto al letto, e questa è la vita che facciamo. Io presi grappa nel caffè ripensando a quel destino, ma capii che una volta l'avevo subito, mentre adesso sapevo per chi lavoravo. Anche su questo avrei voluto sentir lui. Tornammo a casa e per la strada lo vedevo inquieto, gettava occhiate alle nuvole e ai pini del colle. Questa Roma, mi fa, non si riesce a capirla. Hanno tutti una testa. Parlar con loro sembra d'essere al governo. Gira il fascismo, ce l'hanno per casa. Gli fanno la guerra sopra il suo terreno. Sono tutti paesani. Che faccia abbia preso nel mondo nemmeno si sognano. Gli chiesi allora se non erano compagni. Di parole ne dicono tutti, mi fece. Tu non c'eri stanotte. Mi guardò, divertito e assonnato. C'è il suo bello a discutere. Tu non sai quanto è bello. Io gli dissi che intanto era a Roma che avevo capito. Ma è così, disse lui, succede sempre. A Roma sembra tutto più facile. È successo anche a me di capire quando ero studente. Poi, per disgrazia e per fortuna, ho visto il resto. Che Gino Scarpa avesse fatto lo studente mi stupì. Sembrava un uomo come noi, soltanto più in gamba. Intanto eravamo arrivati. Allora Roma la conosci, gli dissi. Dai miei tempi è cambiata, mi disse ridendo. I romani non cambiano. Gina ci accolse sulla porta, contenta. Ci aspettava per farci mangiare un boccone, ma le dissi che cascavo. Gino Scarpa si mise nell'orto a guardar nuvole. Io mi buttai sopra quel letto e chiusi gli occhi. Valerio Binasco ha letto Il compagno di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.